2003 io ho avuto una sostituzione valvolare aortica. E dopodiché ho avuto un problema infettivo al sangue, molto grave, nel senso che sono arrivato al limite della dialisi. E una sera in ospedale, qualche giorno prima di questa dialisi, stavo molto molto male. A un certo punto ero solo in camera, si sono aperte le porte, mi si sono avvicinate quelle che io pensavo fossero due infermieri, però si sono avvicinati, erano sospesi nell'aria. Mi si sono affiancati al letto, mi hanno guardato, mi hanno dato una sberla, ma un ceffone pesante, e mi hanno detto: svegliati Giuseppe. Sono usciti sbattendo la porta e io dal giorno dopo sono cominciato a stare meglio. Allora vede Giuseppe, lei ha fatto un racconto, le dico, i due diversi atteggiamenti potrebbero suscitare il suo racconto. Qualcuno potrebbe dire, sì, chissà che farmaci hanno messo per l'anestesia, l'operazione che aveva fatto, e diciamo ha avuto una visione lucida di qualcosa che era probabilmente la sua psiche. Altri diranno, invece, vedi, questa è la prova che esistono degli esseri intermedi che a volte si appalesano, che a volte non si appalesano, e che in quel caso gli hanno dato la dimostrazione che doveva farsi forza e superare quel momento particolare per poter continuare a vivere. Altri diranno, come il professor Chiappini, noto esperto in B-movie, erano Bud Spencer e Terence Hill, che anche gli angeli mangiano fagioli, per questo erano sollevati, che l'hanno presa a schiaffi. Però lei ha potuto tranquillamente raccontare la sua storia e nessuno la prende in giro.